Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay. Una decina d'anni, uno dei più noti grandi magazzini inglesi, cioè John Lewis, celebra il Natale con uno spot che si sta candidando a diventare una tradizione per gli inglesi nel momento dell'inizio delle feste, insomma questo spot che viene fatto con grande dispiego di forze. Bene, nel 2018 hanno fatto veramente centro, perché il protagonista di questo spot è un personaggio famoso, è meraviglioso, andatevelo a vedere. Il protagonista viene mostrato prima di spalle mentre tocca i tasti di un piano, e poi lo spot ci riporta indietro nel tempo attraverso le fasi della carriera, della vita di quest'uomo, fino a tornare a ritroso, fino a un bambino molto piccolo con la mamma che gli fa trovare il suo primo pianoforte sotto l'albero, e lo slogan che recita: alcuni regali sono più che solo un regalo. Non sappiamo noi se la storia sia vera, se veramente il nostro protagonista ha ricevuto un pianoforte in regalo per Natale, ma di certo sappiamo che quel bambino con quel pianoforte ha ricevuto più di un regalo, e soprattutto ha fatto tanti regali agli altri, perché grazie a quei tasti bianchi e neri lui ha fatto la storia della musica degli ultimi 50 anni. Un artista che nella sua carriera ha realizzato 38 dischi d'oro e 31 dischi di platino, ma dischi veri, non le pagliacce di oggi che sui contati su Spotify. Qui si parla di 300 milioni di dischi venduti nel mondo, cioè 300 milioni di oggetti fisici che sono presenti nelle case del mondo. È l'uomo che detiene anche il record del singolo più venduto di tutti i tempi. È un signore che dal suo primo tour del 70 ha fatto più di 4.000 spettacoli in più di 80 paesi del mondo. E quando dico signore, dico Sir, perché oggi parliamo di Sir Elton John. Sapevo che qualsiasi cosa avrei fatto avrei avuto successo. Non sapevo esattamente per cosa, ma ho sempre avuto quella determinazione in me, la volontà di vincere. Alcuni invece non ce l'hanno. Io ho sempre saputo che volevo fare qualcosa con la musica, che fosse venderla anche semplicemente in un negozio di dischi, o vendere musica o fare il cantautore, purché si trattasse di musica. Morissi domani, sarei stato contento anche di dire che lavoravo in un negozio di dischi, perché avrei avuto a che fare con la musica. Beh, è vero, cioè, ci sono quelli che nascono così, un concentrato di talento vero, un talento che non può far altro che uscire. L'unica fortuna che viene richiesta alla vita è che questo talento esca il prima possibile per se stessi, per il mondo, perché il mondo in questo modo potrà godersi più a lungo lo spettacolo di un grande artista, perché un grande artista è un bene per il mondo. Elton John fa parte di queste persone, come direbbe Totò, lui lo nacque, no? Nacque destinato al successo, che è un sentimento, il successo, prima ancora che un dato di fatto. Ci sono persone che lo sentono dentro sé. Quello che occorre è solo che le pedine vadano al loro posto, che si sistemino tutte nei tasselli giusti. Ecco, l'inizio della vita di Elton John è veramente un mosaico perfetto, un affresco che è iniziato prestissimo. Reginald Kenneth Dwight nasce il 25 marzo del 47 a Pinner, che è un sobborgo a nord di Londra. I genitori Stanley e Sheila sono giovanissimi, si sono sposati subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, magari sotto diciamo l'entusiasmo, lo stupore, la gioia di essere scampati a quella carneficina, e forse già questo fu un richiamo fortissimo alla vita. Il padre Stanley è nella Royal Air Force, è abituato alla disciplina e al controllo, non riesce a ammorbidirsi neanche quando è in presenza di questo bambino. E quindi insomma c'è il primo indizio, il giovane Reggie che soffre questa presenza intimidatoria di questo padre militare, anche se loro vivono assieme solo per i brevi periodi di congedo. Lui è timido, è intimorito, ha questa infanzia solitaria trascorsa in casa con i nonni materni con cui la madre preferisce abitare visti i periodi di assenza del marito, e i momenti difficili sono alleviati in parte da questa scoperta, la scoperta del pianoforte. Lo strumento è quello della nonna, e in casa però sono tutti molto musicali, persino il padre ogni tanto suona la tromba in una band chiamata Bob Miller e Millerman. Quando avevo circa 3 o 4 anni, suonai il valzer dei pattinatori ad orecchio con gran felicità dei miei genitori, che mi abbracciarono sperando di far fortuna grazie a me. No. Ma da quando ricordo c'era musica in casa. Trascorrevo le giornate a guardare i dischi girare sul grammofono. Ed è stato mio padre che mi ha iniziato a tutto questo, ma dall'altro lato non mi ha incoraggiato a diventare un musicista. E lui, che voleva diventare un pilota dell'aeronautica, voleva che io avessi un lavoro sicuro. E poi c'è questa nonna che lo incoraggia. Così qualche tempo dopo è lui che intrattiene la famiglia quando ci sono le occasioni importanti, e poi il resto del tempo lo trascorre davanti alla radio, ascolta Frank Sinatra, Nat King Cole e poi il rock and roll, Elvis Presley, Buddy Holly, Jerry Lewis, fino a Little Richard, la musica che si spande per la casa. È lui che è lì, che la raccoglie, assorbe tutto come una spugna, condensa tutto nei tasti del suo pianoforte, prova subito a riprodurre quello che ascolta, e insomma quel piccolo bambino paffutello e con gli occhiali è, in realtà è un bambino prodigio. A 11 anni vince una borsa di studio, entra all'Accademia Musicale di Londra e a tutti sembra una cosa naturale, non poteva che andare così, e lui stupisce subito i suoi insegnanti perché comincia a suonare un pezzo di Handel lungo 4 pagine, e poi apprezza anche Chopin, Bach, e poi canta nel coro la domenica. È anche un ragazzo normale. Di quegli anni lui ricorda soprattutto che non gli piaceva studiare, non faceva mai esercizio, faceva solo quello che gli bastava per prendere il minimo dei voti. I suoi professori però raccontano un'altra storia, dicono che era un alunno modello che aveva iniziato a frequentare anche dei corsi pomeridiani con un maestro privato, e insomma non si sa se è lui che minimizza o se sono i professori che esagerano. Di fatto c'è che lui un attimo prima di conseguire il diploma decide di non fare gli esami, di lasciare l'accademia, probabilmente in questa occasione che il padre gli scrive una lettera molto dura, una lettera che va a toccare l'anima del figlio che è già così sensibile, una lettera che lui ricorda ancora dopo tanti anni, una lettera che ha scavato un solco nei rapporti tra i due, ma che in qualche modo ha anche, come dire, attivato quella parte ribelle e insoddisfatta di Reginald, quella parte che adesso chiede solo di uscire. Quando avevo 16 anni mi scrisse una lettera dicendomi che credeva fossi un idiota e che avrei fatto meglio a trovarmi un lavoro alla Barclays Bank, perché questa faccenda della musica era una stupidaggine e che sarei finito male. Ma io avevo già 16 anni, quindi ero già finito male. A quel tempo i genitori di Reginald sono già separati da un po', entrambi si sono rifatti una vita. Shirley, che si è risposata con Fred Fairbrother, con il quale il ragazzino Reggie ha un ottimo rapporto, diventerà un punto di riferimento. Stanley, il padre, viceversa, ha già messo al mondo altri 4 figli e con loro sarà un ottimo padre, a differenza di quello che era stato con Reggie. In qualche modo, insomma, questi sono traumi. Lui però nel percorso della vita se ne farà una ragione e alla fine arriverà a dire: non era un cattivo padre, era proprio con me che non funzionava. Però insomma, a pensarci bene, non è che fosse così inusuale che un uomo conservatore desiderasse il figlio che facesse scelte altrettanto conservatrici. Insomma, un po' tutti noi cerchiamo di proteggere i nostri figli da scelte azzardate e magari riteniamo scelte azzardate le cose diverse da quelle che faremmo noi. Il risultato in questo caso però fu veramente pessimo. È uno dei grandi dispiaceri di quello che poi diventerà il grande Elton John, è che finché fu in vita Stanley, il padre, non andò mai a vedere un suo concerto. Per fortuna lui ha una grande alleata nella madre, Sheila, che è convinta del talento del ragazzo. Quando ha 15 anni lo aiuta a trovarsi un lavoretto che si rivelerà fondamentale. Per un anno ho suonato ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica alla Northwood Hills Hotel. All'inizio suonavo soltanto il piano senza cantare, poi man mano che iniziai a guadagnare qualcosa mi comprai un piccolo amplificatore, poi un microfono per cantare le canzoni di Jim Reeves e Cliff Richards, così. E nel 62 Reggie si sente pronto a formare una band e, come succede sempre in quei casi, trova i primi compagni d'avventura tra gli amici d'infanzia, quelli che abitano davanti a casa. Chiamano la band Bluesology in omaggio a un disco di Django Reinhardt che si chiamava Djangology, solo che i Bluesology non hanno nulla di Django, la loro meteora, diciamo così, si schianta al suolo in fretta. Però il ragazzino Reg deve due cose a questa avventura: intanto comincia a sperimentare la composizione, insomma nascono le prime canzoni, e poi capisce che lui con la musica è bravo, ma non è all'altezza di scrivere i testi. Vi faccio sentire un accenno di un pezzo, Mr. Frantic del 65. Insomma, il talento comincia a emergere, però c'è un altro problema: il nome. Difficile immaginare un cantante che si chiama Reginald Dwight, ed ecco a voi Reginald Dwight con Goodbye Yellow Brick Road. Insomma, sembra strano. Lui non è entusiasta del suo nome, si inventa un nuovo nome prendendo a prestito quelli dei due membri con cui va più d'accordo dentro a questa band di ragazzini, Elton Dean e John Baldry, e lui si chiamerà Elton John. Dal 1972 questo diventerà anche il suo nome legale. È il momento di mettersi in cerca di un nuovo gruppo, di partire con un'avventura musicale un po' più seria, e con questo spirito il 17 giugno del 67 lui risponde a un annuncio su New Musical Express, che allora era il Vangelo, era una rivista musicale importantissima, e l'annuncio è stato messo da un produttore musicale, si chiama Ray Williams, lavora alla Liberty Records, lo potremmo definire tranquillamente l'uomo del destino. Eh sì, perché lui risponde all'annuncio e al primo incontro con Elton gli mette in mano una busta misteriosa. Facciamoci raccontare esattamente come è andata da lui, da Elton John, che viene intervistato nel famoso programma americano The Late Show with Stephen Colbert. Ero in una band terribile, non terribile ma mediocre, e non ne potevo più di suonare con persone che mangiavano fish and chips nel camerino di un cabaret. E così mi dissi: che posso fare? Vidi l'annuncio di una casa discografica che diceva: si cercano cantanti e autori musicali. Io avevo scritto un paio di canzoni per la band che avevamo anche registrato, e così risposi all'annuncio. Quando mi guardo indietro ricordo che ero grassottello, molto timido. Non ero il cantante, ma solo il pianista di una band. Ma ero davvero stufo. E così andai in questi uffici di Londra, era la Liberty Records, e c'erano migliaia di nastri magnetici, non c'erano le cassette a quei tempi, e pile di buste di lettere. Il tizio dietro la scrivania mi disse: che cosa sai fare? E io risposi: beh, posso cantare e posso scrivere canzoni, ma non posso scrivere testi, sono senza speranza. E il tizio mi disse: ok, perché non prendi questa busta? E ne prese una a caso da questo mucchio di buste. Avrebbe potuto essere qualsiasi busta, è stato proprio il destino. Mi ha dato una busta sigillata. L'ho portata con me sulla metro, l'ho aperta e l'ho letta. Ed era di Bernie. Avrebbe potuto essere di chiunque, ma quella fu la lettera che lui mi diede. Beh, insomma, un incontro del destino. Poi in realtà poi sentiremo invece la versione che dello stesso incontro darà Bernie Taupin, che è l'uomo che è stato una parte fondamentale del successo di Elton John. Forse senza Bernie Taupin Elton John non sarebbe esistito, o comunque non sarebbe stato quello che conosciamo. Avrebbe trovato sicuramente la sua strada, però quelle canzoni hanno anche, devono molto anche ai testi che colpivano, che andavano al cuore. Elton John, peraltro, è uno famoso per la sua grande generosità, non ha mai dimenticato di sottolineare quanto Taupin fosse importante. Ma comunque, se aspettate, tra un po' arriva l'altra versione della storia del loro incontro. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando la vita, la storia di un numero uno, di più, di un cantante, diciamo, che appartiene proprio all'elite dei super venditori di dischi, longevi artisticamente, insomma, uno di quelli che ha realizzato i sogni di tutti quelli che hanno preso in mano una chitarra o si sono seduti davanti a un pianoforte. Con lui ce l'ha fatta dall'inizio alla fine. Stiamo raccontando Elton John e stiamo parlando di quanto lui fosse timido e introverso durante l'infanzia, anche per colpa di un padre molto particolare, autoritario, e della sua liberazione, diciamo così, dal punto di vista umano, estetico, creativo, e di questa liberazione che ha scatenato un'esuberanza al limite della follia. Jagger e Lennon dimostrano che vivere una vita normale è solo noioso. E per me essere oltraggiosi sul palco fa parte di questa cosa. Devo farlo, perché di solito sono una persona molto tranquilla. Stavamo parlando prima dell'incontro con Bernie Taupin, l'autore dei testi delle sue canzoni fin dall'inizio. E prima vi ho raccontato il punto di vista di Elton e adesso vi racconto la versione di Taupin, che all'epoca peraltro ha 17 anni, 3 anni in meno del musicista. Anch'io vidi quell'annuncio. Era nel 67 e avevo scritto solo qualche poesia. Era tutto di genere psichedelico, come avere dei grandi canyon nella tua testa. Non ho mai potuto suonare nessuno strumento e ancora non riesco, ma quando scrivo riesco a sentire le melodie nella mia testa. Così scrissi una lettera in cui dicevo che avevo bisogno di qualcuno che mettesse la musica sotto le mie parole. Tuttavia, non spedii mai la lettera. La buttai via. Fu mia madre che la trovò nel cestino e la spedì. E l'inizio di quella collaborazione che lo stesso Elton John definirà come la collaborazione più forte dell'intera storia del pop. Insomma, magari è esagerato, siamo quantomeno alla pari, c'è Lennon, McCartney e Jagger Richards come minimo, però Elton John è così molto sicuro di se stesso. È una collaborazione che ha sicuramente i connotati di una magia, un incontro karmico, una cosa che doveva succedere. Pensate che i due, peraltro, non hanno mai lavorato un giorno nella stessa stanza assieme. Lavoravano in maniera separata, collaborazione a distanza. Bernie che invia i testi via fax, oggi magari con la mail, e Elton che li completa con la musica. Quindi, peraltro, un modo molto particolare, cioè si parte dal testo e poi arriva la musica di Elton. Molto strano. Vado in studio, guardo i testi per la prima volta solo quando li metto sul piano e comincio. Se non mi viene niente entro 40 minuti, mi arrendo. È un sistema che non è mai cambiato, il brivido non è mai passato, perché non so mai cosa otterrò, non so mai cosa si andrà a comporre davanti a me. E la prima canzone scritta dai due si chiama Scarecrow, Spaventapasseri. Il primo album è Empty Sky, e il loro vero primo successo però esce un anno dopo. L'album si chiama semplicemente Elton John e contiene una canzone che è Your Song, e lì è un detonatore. Ovviamente una canzone che ha la sua forza nella sua semplicità, peraltro è un bigliettino un po' ingenuo di un ragazzo di 17 anni, un biglietto che lascia alla ragazza che gli piace, quello che noi avremmo tutti voluto scrivere e che forse ha scritto solo Taupin. Pensate che lo ha scritto, almeno la leggenda così dice e lui lo conferma, l'ha scritto sul tavolo di cucina della madre Sheila, e la madre di Elton, si era trasferito lì poco dopo che i due si erano conosciuti. Il testo originale l'ho scritto molto rapidamente sul tavolo della cucina della mamma di Elton, nei sobborghi di Londra. Se ricordo bene, su un pezzo di un quaderno per esercizi particolarmente sudicio. È la voce di qualcuno che non ha mai provato l'amore in alcun modo. È una canzone molto virginale. How wonderful life is while you're in the world. Your Song rende improvvisamente famoso Elton John. A 23 anni lo catapulta subito ai vertici, arriva in America, suona nel famoso Troubadour, che è il locale storico di Los Angeles, dove a quei tempi si esibiva gente come Quincy Jones, Crosby, Beach Boys. Ha un successo incredibile. La critica americana parla di lui come di un nuovo messia del rock, viene considerato l'erede dei Beatles ed è solo l'inizio, perché nei 6 anni seguenti Elton John e Bernie Taupin sfornano un disco dopo l'altro e alcune tra le più belle canzoni degli ultimi 50 anni: Tiny Dancer, Daniel, Rocket Man, Honky Cat, Crocodile Rock, Candle in the Wind, dedicata a Norma Jean, a Marilyn Monroe. Insomma, sono veramente tante le canzoni che i due scrivono e che portano al successo. L'abbiamo detto prima, questa è una collaborazione veramente particolare. I due fanno il brano, poi le strade si separano ogni volta. Taupin è un tipo particolare, un poeta, preferisce la tranquillità di casa sua. In realtà poi a casa sua ci porta i suoi amori, si sposerà 4 volte. Però è uno che detesta la folla. E Elton invece è il contrario, è un animale da palcoscenico, comincia a indossare abiti psichedelici, siamo nei pieni anni 70, ricordiamocelo, quindi gioca zeppe, lustrini, pantaloni a zampa di elefante, giacche dai colori sgargianti, è glam fino in fondo, anzi è di più, è esagerato, riesce a trasformare in una forma d'arte il suo difetto, che è la miopia, e gli occhiali diventano il suo marchio di fabbrica. Ne ha sempre di montature diverse, sempre enormi, sempre molto vistosi. Insomma, la sua cifra stilistica è quella dell'eccesso. Lui vuole stupire il pubblico, indossa cappelli e capelli esagerati, fa qualsiasi cosa. Poi negli anni 80 qualcosa cambia, lui decide che non ce la fa più a condurre quella vita e a esporsi in maniera così esagerata. Ho smesso di mettere gli occhiali nel 1976 e fino ad allora avevo l'abitudine di indossarne di molto vistosi, ma la verità è che mi nascondevo dietro di loro, ero molto timido e impacciato. Smisi di fare tour nel 1976 perché avevo avuto 6 anni al top, avevo lavorato tantissimo e di base ero molto infelice. Tutta la mia vita, non avevo una vita privata. John Lennon mi disse: ma perché fai così? Smettila. E infatti nel 76 non ne potevo più. E così cambiai e tra le tante cose smisi di usare gli occhiali e iniziai a usare le lenti a contatto perché ero stanco di non guardare le persone negli occhi. Cioè lo facevo, ma stando al sicuro dietro agli occhiali. Nel 76 lui è reduce da 6 anni di successi incredibili, numeri 1 in tutte le classifiche del mondo e soprattutto in America. Ha recitato in un ruolo super iconico, cioè il campione di Flipper nell'opera rock degli Who Tommy. Lui fa una meravigliosa performance cantando appunto Pinball Wizard. È il momento di sospendere l'attività, smette, lo annuncia durante un concerto alla Wembley Arena, anche perché in realtà qualcosa non sta funzionando. Cioè di fuori tutto funziona, ma dentro c'è un uomo provato, affaticato, che ha un sacco di problemi, che ricorre sempre più spesso all'alcol e alla cocaina. Una volta per esempio lui non riusciva a dare al giornalista l'idea di quanto avesse consumato in cocaina e gli disse: quando volo sopra le Alpi penso che tutta quella neve è come tutta la cocaina che ho sniffato, e il risultato non è bello. In passato, soprattutto quando ero sotto l'effetto della droga, tiravo fuori un lato mostruoso da dentro me stesso. Ma non ero davvero così. Potevo esserlo per un breve periodo, ma questo può succedere a tutti. Ma la gente mi diceva: guardatelo, è un fottuto mostro. Beh, provaci tu a restare dentro al fottuto mondo dello spettacolo, baby, e vedrai. Abbiamo tutti il nostro lato oscuro. In tutto questo c'è lo sport che salva il nostro Elton John per un po' di tempo, è la sua altra grande passione. In realtà sport, diciamo, dal punto di vista sedentario, lui è appassionato di calcio. Nel 76 acquista la squadra del Watford, diventa presidente del Watford e porta la squadra dalla quarta serie, allora insomma la serie D, diciamo, per intenderci, anche se lì non si chiama così, la porta fino alla Serie A, fino alla Premier League. Come sempre, le ambizioni e la determinazione di Elton John riescono a compiere il miracolo perfino in un ambito così complesso come quello del calcio. E il Watford conoscerà il suo periodo d'oro proprio sotto la gestione di Elton John. In realtà però è uno scambio reciproco, perché più di una volta lui ha dichiarato che se in quegli anni non avesse avuto il Watford, che in qualche modo era un modo anche per tenersi impegnato, per fare qualcosa di meno alienante, se non avesse avuto il Watford chissà cosa sarebbe potuto accadergli. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. E gli anni Ottanta iniziano un po' in sordina. Da un lato si separa temporaneamente da Bernie Taupin, che ha le prese col solito divorzio. Per contro lui continua a portare gente, c'è un concerto famosissimo nell'80 a Central Park di New York, scrive anche delle belle canzoni, Sad Song, Blue Eyes, Nikita, però la verità è che in quel momento il mondo è cambiato, è arrivata la New Wave, Elton John sta facendo fatica a trovare una sua cifra stilistica giusta per quegli anni. Poi c'è anche il problema che lui sta facendo fatica a far pace con la sua sessualità, ha un'altra fidanzata ancora, un'ereditiera, Linda Woodruff, però è depresso. Bernie Taupin lo trova in cucina con la testa nel forno per un suicidio, forse più un segnale d'allarme gettato al mondo che non un reale suicidio. E poi si sposa nell'84 in Australia con una tecnica del suono con la quale sta collaborando, anche questa volta ci crede, ma il matrimonio ovviamente naufraga dopo appena 4 anni. Nel 1988 trova finalmente il coraggio di dire a tutti che lui è omosessuale. Il momento, insomma, è particolare perché sono gli anni in cui scoppia l'AIDS, molti muoiono, tra cui un ragazzo, Ryan White, col quale Elton aveva sicuramente avuto quantomeno una grande amicizia. Allora lui crea una fondazione, la Elton John AIDS Foundation, e raccoglie in quegli anni più di 200 milioni di dollari e devolve anche decine di milioni del suo patrimonio personale. Del resto la sua generosità è proverbiale, il racconto di Rod Stewart che dice che durante una festa di Natale lui e Elton gli regala un Rembrandt, un'amica attrice che si lascia sfuggire che una volta lui aveva regalato un braccialetto di zaffiri e diamanti alla sua bambina di 6 anni, ma anche cose più belle, non solo un malato di shopping o un accumulatore seriale di opere d'arte, era anche uno che ha aiutato amici in difficoltà, che una volta in Ucraina ha creato un fondo per aiutare un bambino sieropositivo di 14 mesi che non era riuscito a adottare, poi i centinaia di concerti di beneficenza per sostenere qualsiasi tipo di causa, insomma tutto il contrario di tutto. La mia filosofia di vita è che potrei essere messo sotto da un autobus domani mattina. Domani potrebbe succedere di tutto. La mia vita potrebbe cambiare completamente. Quindi non capisco chi ammassa soldi per il solo piacere di farlo, pensando a giorni brutti, perché quando questi arrivano non ci sarà più nessuno con cui godersi i soldi. Sono già andati via tutti. Quindi meglio godersela finché puoi. Non vuol dire che faccio il matto, solo che regalo ai miei amici qualcosa che li fa star bene. È meglio godere subito delle cose, perché domani non sai quello che potrebbe accaderti. Nel 1992 arriva l'uomo della vita, si chiama David Furnish, regista di documentari. Peraltro i due sono la prima coppia che si sposa, perché nel 2014 l'Inghilterra riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso e grazie alla fecondazione assistita arrivano anche due figli. In qualche modo riparte anche la carriera. Gli anni 90 vedono Elton John che lavora su diversi fronti, colonna sonora del film di Disney Il Re Leone, per esempio, vince l'Oscar, prima posizione negli Stati Uniti, 10 milioni di copie vendute. Poi però ci sono altri eventi tragici, ma anche nella tristezza e nella disperazione lui riesce a trasformare la sofferenza in successo. Accade nel 97 quando muore la sua grandissima amica, la principessa Diana. Elton chiede a Bernie Taupin di riscrivere le parole della canzone dedicata a Marilyn Monroe, Candle in the Wind, e lui canterà questa canzone solo una volta in pubblico al funerale di Diana nella cattedrale di Westminster. Il disco pubblicato venderà più di 30 milioni di copie nel mondo, il singolo più venduto di sempre, e l'incasso verrà devoluto interamente alla fondazione della principessa Diana. Candles burned out long before your legend ever will. Nel 1998, non sappiamo se con gioia o a denti stretti, la regina Elisabetta gli conferisce il titolo nobiliare di Sir con tanto di stemma araldico. È un riconoscimento che va a consacrare un uomo con una grande nobiltà d'animo unita a un'eccentricità, insomma, a una frivolezza tutta aristocratica. Pensate per esempio che un anno prima, per festeggiare il suo 50° compleanno, lui si era fatto fare un completino in stile Luigi XV con la parrucca incipriata sormontata da una nave argentata che sparava del fumo dai suoi cannoni. Insomma, questo è Elton John. E nel 2018, a 70 anni, annuncia di voler chiudere definitivamente i concerti, ma lo ha annunciato già parecchie volte, e nel frattempo sono partite le 300 date di chiusura tour. Tutto questo terminerà nel 2020, poi si vedrà, secondo me. Sarà lo spettacolo più complesso e fantastico che abbia mai fatto. Un modo per dire grazie a tutti e uscire con il botto. Non voglio lasciare con un gemito. Abbiamo raccontato la vita di un uomo che ha riempito tutti noi di colpi d'ala fatti di canzoni, ma fatti anche di generosità, di sofferenze e di componenti eccentriche. E d'altra parte, insomma, Elton John è questo e ancora molte altre cose che il tempo non ci ha permesso di raccontarvi. Colpi d'ala, ma direi ali luccicanti, ali di paillette. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay.